Quello a cui assistiamo in queste ore, cioè l'ennesima crisi del governo francese, ma sarebbe più corretto dire di un modello di governo, cioè un governo che fino a qualche anno fa era estremamente stabile, con una legge elettorale ipermaggioritaria e con un presidenzialismo forte, mostra sempre più segni di fragilità. Li avevamo già segnalati l'anno scorso, proprio sulle onde di Radio Città Fujiko, in cui sottolineavamo come era la prima volta, una delle prime volte che la Francia si trovava a dover fare delle elezioni intermedie, delle elezioni al di fuori dei 5 anni previsti, e questo era dovuto a tante cose: la fragilità del governo, la legge elettorale che è pensata per un bipartitismo, mentre ci si trova ormai sempre di più di fronte a tre blocchi, quindi il maggioritario non performa bene, se vogliamo dirlo in termini liberali e liberisti. Ma c'è una crisi più profonda che attraversa il paese, di cui queste continue turbulenze che ricordano un po' la prima Repubblica Italiana, no? Ci ricordiamo quando di fronte alle turbulenze italiane si dicevano cose magnifiche del sistema francese. Ecco, queste turbulenze ormai sono caratteristiche anche del modello francese. Ci sono tante cose che sono state scritte riguardo a questa crisi di governo. Cerco di aggiungere alcune perché mi sono sembrate poco presenti nel dibattito italiano. La prima, soprattutto in un paese come l'Italia, dove a osservarlo da Parigi sembra che ci sia ormai una grossa confusione nella divisione destra-sinistra, c'è da sottolineare che questo governo cade oggi perché l'estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen e di Bardella ha tolto la fiducia, nel senso che fino ad oggi questo governo centrista, liberista, che ha compiuto manovre di macelleria sociale non troppo diverse da quelle di Monti, è stato tenuto in piedi dal sostegno esterno dell'estrema destra, un po' come faceva Bertinotti con Prodi nel 96, se ci ricordiamo, quindi una non partecipazione, ma fin tanto che l'estrema destra non votava contro, il governo poteva continuare a fare quello che voleva. Bene, tanto per dire che questa visione dell'estrema destra come rappresentante del popolo contro l'elite è abbastanza falsa. La seconda cosa che va sottolineata è che questa crisi oggi avviene su una manovra economica estremamente dura. Questa è veramente paragonabile alla Monti-Fornero. Tanto per fare alcuni esempi, la cosa che colpisce qui più in Francia, per tante ragioni anche di cultura politica e del lavoro, è l'annullamento di 2 giorni festivi. Cioè, in quei 2 giorni lì si va a lavorare, ma non si viene pagati e il proprio salario viene dato dal proprio datore di lavoro direttamente allo Stato per pagare la sicurezza sociale, per pagare le pensioni, per pagare altre cose in cui verranno destinati quei soldi, quindi 2 giorni in più di lavoro non solo, ma senza essere pagati. Ecco, questa manovra molto forte, che probabilmente avrebbe trovato l'opposizione dell'estrema destra, che pensa di poter cominciare a capitalizzare il consenso ottenuto, ecco, a questo punto il governo ha deciso di mettere la fiducia sapendo di non avere i voti e quindi aprendo la crisi. Quale può essere l'uscita di questa crisi? È sempre molto difficile riuscire a fare previsioni, soprattutto perché sono quelle manovre politiche politicanti che sono molto sconnesse dalla vita reale delle persone e dai veri problemi del paese. Però c'è un'uscita di questa crisi, o almeno due, che potrebbero essere quelle previste da Macron per questa occasione qui. Dalle elezioni dell'anno scorso, secondo me a torto, la sinistra del Fronte Popolare rivendica una vittoria e rivendica come conseguenza di questa vittoria il diritto di governare. Il problema è che in Parlamento la coalizione ha un po' più del 30%, quindi gli manca ampiamente la maggioranza, e nel paese i sondaggi la danno al di sotto del 30%, quindi addirittura in calo. Ecco, Macron potrebbe forse giocare un brutto tiro alla sinistra e facendogli pagare le proprie contraddizioni, cioè dire effettivamente rivendicate la maggioranza da un altro anno, mi accusate di non voler dare ascolto al voto popolare, bene, allora adesso governate voi, con il risultato che verrebbero fuori da una parte le contraddizioni di una coalizione in cui i socialisti e verdi sono piuttosto propensi in qualche modo a fare compromessi sulla riduzione del debito, riconoscono il problema, non sostengono la manovra troppo dura di Bayrou, però qualche cosa va fatto. E una sinistra di comunisti e Ansoumis che invece non vedono assolutamente le cose in questo modo qui, ma soprattutto nessuno sarebbe capace di avere una maggioranza in Parlamento in cui si troverebbe i due per due terzi del Parlamento contro, tra cui l'estrema destra e il centro di Macron, e quindi sarebbe un fallimento, e questo fallimento, diciamo, sarebbe chiaro a tutti, e il Fronte Popolare lo pagherebbe alle prossime elezioni. In questo modo Macron probabilmente cercherebbe di sgonfiare il fronte popolare per preparare il voto probabilmente dell'anno prossimo, prima o dopo le elezioni municipali che ci saranno in Francia. Queste sono pure speculazioni, ma è giusto per dare la misura di quanto è profonda la crisi qui e di quanto sia una crisi, per usare termini italiani, al buio, nel senso che non c'è nessuna forza ad oggi, in assenza di elezioni, che possa prendere la guida del paese, e a mio parere, anche in presenza di elezioni, anche se si andasse a votare, io dubito che qualcuno possa avere una maggioranza sufficiente a governare da solo. Quindi sarebbero alleanze con blocchi che non sono solo diversi, ma contrapposti, nel senso che ci sono mutue incompatibilità tra i tre poli, quello centrale, quello di sinistra e quello di estrema destra. In ogni caso, vedremo nelle prossime ore quello che avverrà in Francia.